La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori della 24, 16:03, turno primi 9 secondi, quindi diretta dai studi di Milano della radio. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta o in podcast della versione di Oscar. Vi ricorda anche l'indirizzo della versione di Oscar, @radio24.it, per riprendere a sollecitarvi dopo l'estate per chiedere temi per puntate, proporvi direttamente con vostre storie se ritenete di interesse pubblico, e ovviamente per chiedere qualunque cosa, tanto rispondo, critiche, stroncature, qualunque cosa. Però innanzitutto temi di trasmissioni e proposte di storie vostre, perché lo sapete, spessissimo le trasmissioni fino alla pausa estiva erano fatte una su due quasi in media su segnalazioni che vengono direttamente da voi. Allora, di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di una storia che vi dico subito, se siete in condizioni analoghe è il giorno giusto per telefonare all'800 24 00 24. Cioè parliamo di una impresa che è ben condotta, va bene sul mercato, vuole crescere, ha bisogno di crescere, cioè ha bisogno di spazio per crescere, impiega già un elevato numero di persone, cioè 120 sono nel posto dove ha il suo insediamento principale, però ha bisogno di crescere. E avendo bisogno di crescere ha bisogno anche di spazi, ovviamente, dove estendere i propri macchinari, i propri impianti e così via. E se non che si incontra con una delle tradizionali ostacoli all'impresa del nostro paese. Tempi per tutto l'iter amministrativo necessario a identificare l'area, a verificarne la possibilità di uso per impianti industriali, eccetera, eccetera, eccetera. Lunghissimi, estenuanti, totalmente incompatibili con la necessità di un'impresa che, siccome è in queste condizioni, decide di fare questa scelta, questa valutazione, la fa responsabilmente, perché nessuno di questi tempi può pensare di volersi accrescere rischiando troppo. Sapete com'è la condizione del credito bancario, oggi sono usciti ulteriori dati che hanno ancora il segno meno per il credito sia alle imprese che alle famiglie, aumentano gli NPL, in borsa vanno male, MPS è sceso sotto 0,2 oggi, vale solo 522 milioni. Lasciamo perdere, in queste condizioni un'impresa che vuole crescere, diciamo, lo fa con la testa sulle spalle, a maggior ragione in un paese in cui la crescita è tornata a zero nel secondo trimestre. Avremmo dovuto immaginare, sperato tutti, che in questi anni di crisi forse potevano, dovevano, ecco, forse anche dovevano cambiare gli ostacoli che la pubblica amministrazione continua a opporre alle imprese che vogliono crescere. Quelle che vogliono crescere, invece di farle crescere, ripeto, mica violando la legge, ma insomma evitando di perdere anni perché si possa realizzare la possibilità a un'impresa di avere un'area in cui insediare impianti nuovi, occupazione nuova, estendere il prodotto, crescere la sua fetta sul mercato. È una storia di questo tipo oggi, quindi se siete in condizioni analoghe e state penando da mesi o da anni, come capita a tantissimi, per avere autorizzazioni all'estensione delle vostre attività, telefonateci all'800 24 00 24. Ma che cos'ha di particolare la storia di oggi? La storia di oggi è una storia che ha una particolarità, perché non si conclude, come non piace a molti ed è purtroppo avvenuto in massa per migliaia di imprese italiane in questi anni di crisi, che hanno preferito delocalizzare all'estero, perché all'estero ovviamente si pagano meno tasse, perché la pubblica amministrazione è più rapida, perché è più basso il costo della manodopera, perché è più basso il costo totale dei fattori, del credito, dell'energia, delle bollette e così via. No, noi non stiamo parlando di un'impresa che fa questo ragionamento, bensì di un'impresa che, di fronte alle condizioni che ci descriverà adesso, ottiene una offerta di, tra virgolette, concorrenza interna tra le regioni italiane. Cioè, sempre all'interno del nostro paese c'è chi dice: no, un momento, se a te creano ostacoli, cioè ti propongono dei tempi troppo lunghi, io mi attivo e nel nostro comune, in quest'altra parte d'Italia, ti garantisco tempi rapidissimi. Allora, la concorrenza interna a me sembra un'ottima cosa e naturalmente va un po' a scorno per le amministrazioni delle aree d'Italia che invece non sono capaci di farle, ma la concorrenza interna potrebbe essere proprio una molla potente, perché anche chi invece ha tempi apocalitticamente biblici possa ragionare sul fatto che, se non vuole perdere occupazione e impresa a casa propria, deve fare l'impossibile, non il possibile, l'impossibile per rendere i tempi molto più solleciti, cioè un minimo coerenti con i tempi di impresa che devono decidere quando hanno preso queste decisioni, devono realizzarle il più brevemente possibile, ripeto, nel pieno rispetto delle leggi urbanistiche, edilizie, della sicurezza sul lavoro. Non stiamo parlando di violarle, stiamo parlando di un tempo minimamente coerente, perché il pieno rispetto di tutto questo non sia tale però da far cambiare il ciclo economico, per cui l'impresa dice no, senti, nel frattempo io purtroppo ho cambiato idea. Ecco, allora, per parlare di questo abbiamo con noi uno dei titolari dell'azienda di cui parliamo oggi. È un'azienda dolciaria e lui ne è titolare insieme ai fratelli. È un'azienda dolciaria il cui principale insediamento è in provincia di Palermo ed è uno dei brand più famosi del Made in Sicily, per così dire, perché tutte le specializzazioni, o almeno molte delle specializzazioni dolciarie siciliane, loro le producono al massimo livello, con grande successo: creme al pistacchio di Bronte, le ganache al cioccolato di Modica e così via, tante altre cose. E poi naturalmente fanno, imprese dolciarie di queste proporzioni, fanno anche panettoni, colombe pasquali e altro, quindi hanno anche un ciclo stagionale oltre all'offerta ordinaria. Ecco, questo imprenditore, che è insediato col suo principale stabilimento in provincia di Palermo, a Castelbuono, quindi nelle Madonie, si chiama Nicola Fiasconaro e lo ringrazio di essere con noi oggi pomeriggio. Buon pomeriggio. Buonasera Oscar, a lei e a tutti i suoi radioascoltatori. Allora, ci spiega un secondo, poi interverrà anche tra poco l'amministratore invece di un'altra parte d'Italia, che ha detto no, un momento, aspetta, siamo pronti noi, che è già collegato con noi, ma ve lo presento tra poco. Chiedo a Nicola Fiasconaro, ci spiega meglio la storia, l'andamento della sua impresa, la difficoltà, cioè da quanto va avanti questa storia? Lei questa decisione di estendersi, visto il successo, quando ha iniziato a pensarci? Beh, questa storia effettivamente un po' pirandelliana, un po' la maledizione del Gattopardo in ogni diamo in Sicilia. Siamo appunto in una splendida cornice, siamo nelle Madonie accanto a Cefalù, poi ci sono i monti e quindi Castelbuono e tantissimi altri piccoli borghi di 2.000, 3.000, 10.000 abitanti, insomma 29 comuni le Madonie, dove c'è una grande cultura di turismo enogastronomico. C'è grande ospitalità al forestiero che viene, al turista, perché appunto grazie appunto al mare lì accanto, insomma c'è un circuito abbastanza importante. La favola, la fiaba Fiasconaro nasce da circa 20 anni, comunque già papà con la sua famiglia nel 53, il primo bar nel questo borgo appunto Castelbuono, le prime granite, si andava con le mule nelle Madonie a prendere la neve per fare appunto le granite al limone, gli agrumi, con le prime brioche, le prime cassate. Niente, io Fausto e Martino pigri a scuola, papà è riuscito a farci innamorare di un mestiere, quello dell'alimentazione, insomma, no? Martino gestisce l'amministrazione, Fausto gestisce i suoi negozi in piazza, al bar Piazza Margherita appunto, e io gioco pasticcio, da sempre ho avuto questa passione. Da ragazzo andavo in Piemonte piuttosto che in Veneto, in Lombardia, facevo qualche corso di aggiornamento, le prime accademie, le toile a chiodi sottomarina, e mi innamoro di una pallina di acqua e farina che appunto è la pasta acida, il lievito madre, i dolci da ricorrenza, il panettone, ma che c'entra il panettone in Sicilia? E oggi, come lei ben non ne ha ancora forse parlato, eccetera, ma oggi Fiasconaro non è cassata o pasta di mandorle. Fiasconaro oggi è dolci da ricorrenza, il panettone e quant'altro, anche le colombe ovviamente. Succede che noi siamo un po' l'eccesso all'incontrario. Nel 2006, nel 2008, quando cominciò la crisi globale, Fiasconaro investiva in ricerca scientifica, in risorse umane. Prevedevamo questa cosa nel nostro piccolo, perché insomma noi siamo una piccola realtà in Sicilia, attenzione, abbiamo investito comunque soprattutto nelle persone, nei ragazzi del territorio di Castelbuono, e di anno in anno crescevano a dismisura gli ordinativi, quindi insomma un po' il panettone che lo volevano in Sicilia, in Italia, in Europa, nel mondo. Siamo stati addirittura i primi fornitori della NASA nel 2007, quando Nespoli quando Nespoli poté cibarsi per la prima volta nella storia di un prodotto artigianale. Ed era il vostro. Ed era il nostro, una pastiglia di mandorle e il panettone di Ascolano, fra le altre cose. No, questo significa che oltretutto, oltre alla bontà, eccetera, eccetera, anche nella strategia commerciale dovete, insomma... Ma più che strategia, ecco, c'è un rigore scientifico sull'alimentazione, sicurezza alimentare. Su queste cose siamo molto attenti, siamo collegati con molte università che ci aiutano a migliorarci, a fare le cose per bene, tra virgolette, normali, tra virgolette. Quindi un'eccellenza vera, riconosciuta, di successo negli anni, a maggior ragione nella crisi. Tutto qua. E com'è che un'eccellenza di questo tipo si... Succede una cosa incredibile. Noi ci siamo insediati in un'area circa 18 anni fa, adiacente alla famosa... ex Sirap, quindi un comparto di agroalimentare industriale incompiuta. Sì. Quest'area è stata costruita più di 35 anni fa, ad oggi ancora rimane così com'è. Fra le altre cose, da 6 anni le amministrazioni attuali e quella precedente si sono impadronite giustamente, perché c'era un contenzioso di magistratura, di antimafia, quelle cose lì. Da più di 6 anni questo comparto ora sta alle amministrazioni saperlo gestire. Ad oggi questo non solo non è avvenuto, e succede che a 300 metri di distanza, dove noi produciamo i nostri dolci, le nostre leccornie, il nostro patrimonio millenario di cultura dolciare siciliana, ti mettono una oasi ecologica illegale. Perché dice illegale? È illegale perché ci sono le condizioni per dire che questa oasi ecologica è gestita in un modo illegale. L'ultima beffa, la cosa che proprio ci ha mortificato, no? Noi adiacente agli stabilimenti abbiamo dei magazzini sparsi per le campagne, vengono qua i bocconiani a darci dei consigli perché siamo un po' qua, un po' là, e del destra e a manca, quelle cose lì. In un'altra area a 2 chilometri di distanza c'era un'industria importante di autotrasporti. Questa azienda, purtroppo, per motivi che non stiamo qui a rappresentare, è fallita da almeno 10 anni, c'era un contenzioso pure con la mafia, quelle cose lì, fallimento, eccetera, eccetera. Noi ne abbiamo usufruito, ancora oggi ne godiamo, degli spazi di logistica e di magazzino. Ma 3 mesi fa, 2 mesi e mezzo, 2 mesi, 3 mesi fa, l'ultimo processo, che dura da 5-6 anni almeno, il giudizio finale della magistratura è quello che di questa struttura, di questo ufficio e quant'altro, se ne riappropria lo Stato e a darlo esclusivamente a fini sociali. Quindi noi non solo non ci hanno dato la possibilità di poter ampliare questo fenomeno Fiasconaro, questo brand meraviglioso che negli anni fattura 1-2 milioni in più all'anno, quelle cose lì, ma ci hanno tolto, perché non so se succederà fra qualche mese, ci toglieranno anche gli attuali magazzini che godiamo da 10 anni, ma godiamo che per ogni anno paghiamo decine e decine e decine di migliaia di euro, dottor Giannini. No. E quindi voi avete bisogno di spazio, questo è il punto. Spazi che ci sono a 300 metri, perché l'ex Sirta sono capannoni costruiti 35 anni fa. Ce li ho io e me li sogno la notte accanto, e su questi spazi hanno fatto l'oasi ecologica. Ma che cosa? Queste cose, dottor Giannini, le sa. Ma qual è il problema che è insorto con l'amministrazione di fronte alle vostre esigenze? I simili sono, insomma, dei nanetti, insomma, non voglio io dare. Sono delle lumachine, insomma, la responsabilità relativa del sindaco attuale piuttosto che del predecessore, ma qui è un via vai, qua vengono ministri, qui vengono tutti a Castelbuono a complimentarti, viene Di Maio con Cancellieri, viene la senatrice Di Giorgi, che è nata a Castelbuono, che ha cresciuto Matteo Renzi, ma lei è di origine di Castelbuono e queste cose gliele dico giornalmente. Qui, però non si è mosso niente, lei non è riuscito. Crosetta viene a fare il governo quater a Castelbuono con tutta la sua struttura di notte, mentre io in passato con gioia gli do l'ospitalità, perché intanto è anche un piacere ospitare sì. l'istituzione, è una cosa importante, ne siamo orgogliosi. Nicola, ti risolviamo, Nicola, Martino e Fausto, riusciremo a risolvere queste cose. Ad oggi io ho ricevuto una lettera, perché ne ha parlato su questa situazione Fiasconaro, suoi colleghi importanti, sì, giornale, come no, certo. E non solo, ho ricevuto questa lettera, il sindaco Silvano non pensava che io andavo lì, in questo magnifico borgo di montagna piemontese. Alta, la fermo qua, perché fino a qua lei ci ha descritto la storia e il problema. Adesso abbiamo un minuto di informazione sul traffico e andiamo all'altra parte, cioè un sindaco di un paese del Cuneese, Silvano Dovetta, che ci ha ascoltato religiosamente, lo ringrazio, che a quel punto dice: alt, facciamo un'offerta noi dal Piemonte a la Fiasconaro, ai tre fratelli Fiasconaro. Se non avete spazio lì e non vi capiscono, venite da noi. Tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, cari ascoltatori. Avete sentito, è con noi collegato Nicola Fiasconaro, che insieme ai suoi due fratelli, in questi ultimi vent'anni, protagonista di una storia di successo, un'impresa dolciaria, quindi alimentare, nelle Madonie, provincia di Palermo, e che per crescere, visto che gli ordinativi crescono, il fatturato cresce, gli utili crescono, crescono i dipendenti, che sono già oltre 120 persone in questa sola Castelbuono, però le aree intorno non vengono concesse, anzi vengono sottratte, quelle di cui loro avevano l'usufrutto per questioni logistiche di magazzino. E di fronte a questo la storia esce sulla stampa e un sindaco di un piccolo comune del Cuneese in Piemonte, Velasca, Silvano Dovetta, legge e dice: no, un momento, aspetta, forse ho un'idea. Silvano Dovetta è con noi, grazie, ci racconta quando l'ha avuta st'idea e che idea è. Ma noi abbiamo avuto questa è un'idea che comunque la nostra amministrazione, seppur piccola, di 1600 abitanti, il nostro comune, un comune montano della nostra Valle Varaita, sì, ha recuperato un sito dismesso di 40.000 metri quadri, dove sorgeva un tempo un'industria del legno molto grande e che poi varie vicissitudini ha chiuso. E quindi l'amministrazione si è trovata questo sito dismesso, e allora abbiamo iniziato ad analizzare come poter recuperare questo sito. Abbiamo partecipato a un bando regionale, fatto fare uno studio dallo studio Quintana di Torino, abbiamo partecipato al bando dei fondi FES 2007-2013, competitività regionale e occupazione. Sì. E qui ci ho proposto un bando alle aziende e abbiamo avuto su questa grande area due aziende che hanno partecipato. Allora siamo partiti, abbiamo dato vita a questo progetto, un progetto di 7.500.000, abbiamo recuperato l'area, e però qui è nato, ve lo voglio dire, un momento di grande difficoltà, dove tutti, ovviamente la macchina burocratica va rilento e ferma. Noi ogni 10 mesi abbiamo riqualificato questi 40.000 metri quadri con 3 bandi pubblici, con partecipazione al primo bando di 100 aziende, al secondo di 80, al terzo di 100, per questo importo. Ci siamo trovati 2 aziende, fatto sta che abbiamo ancora delle aree notevoli libere. A disposizione. Esatto, a disposizione. Un giorno nel mio ufficio comunale leggo un quotidiano e leggo questa situazione di questa della Fiasconaro. Di questa ditta, esatto, c'è della Fiasconaro. Allora faccio un'email alla ditta dicendo: dall'altra parte dell'Italia noi abbiamo disponibilità per ospitarla. È stato, e le ho raccontato tutto l'iter che abbiamo sì. fatto per quest'area. Gentilmente il signor Nicola mi ha chiamato una settimana dopo, qualche giorno dopo, e mi ha spiegato tutte le sue difficoltà per poter andare avanti, perché come ha raccontato poc'anzi in diretta, tutte le sue difficoltà aziendali per allargarsi. Un momento di grande difficoltà dove l'economia, le industrie, esatto. Allora mi ha chiamato, ho detto, ma chi sta, quando farò l'inaugurazione la vorrei invitare. Così le mostro. Sito. Esatto, e così sabato abbiamo fatto questa inaugurazione davanti al presidente, cioè regionale, ministri e tutto, anche perché, come le dico, non sto qua a raccontarle tutto, ma in 10 mesi fare quello, un'amministrazione delle nostre dimensioni. Delle vostre dimensioni. Anche, no, ma infatti, ripeto. Siamo stati anche fortunati, per carità, di aver trovato delle aziende serie. Per carità, però. Noi siamo dei montanari, ma forse un po' chiusi, però molto seri. Però e si pedala. C'è serietà e si lavora bene. Allora, adesso abbiamo due aziende, esatto. E vediamo se. Adesso io richiedo a Fiasconaro, ma voi andrete avanti, cosa fa? Aprite un tavolo tecnico, lei ha deciso, perché io ho capito che dalla Sicilia i comuni adesso dicono no, ti risolviamo noi, adesso è diventato un caso nazionale. Lei che farà, Nicola? Ma io aspetto una delegazione piemontese, ovviamente a Castelbuono, proprio ieri sera ho parlato con Silvano, che è una persona straordinaria. La comunità, dottor Oscar, quello che io ho ricevuto volentieri 3 giorni fa appunto in questa inaugurazione, non pensi che io ero orgoglioso, contento, felice, no, certo. ero molto ferito, tra virgolette, perché più la tua terra di Sicilia sprofonda nel Mediterraneo, più tu la ami, più tu gli vuoi certo. bene e non vorresti abbandonarla, ma l'accoglienza, tra l'altro lì vede, ho fatto questo riferimento perché ho avuto anche l'onore di concludere i lavori dell'inaugurazione parlando delle amicizie e dell'affetto Fiasconaro con la famiglia Ferrero, piuttosto che con Alessandra Balocco, certo. la famiglia Brandani della Maina, che li conosciamo da sempre, ti danno dei consigli, con la famiglia Venchi. I Venchi vogliono venire in Sicilia perché vogliono collaborare con la famiglia Fiasconaro, e Massimo Albertengo, che è il mio amico, che è a San Giorgio, lì accanto, da questo borgo di montagna, fa il più bel panettone al moscato d'Italia, e loro ti vogliono, capisci? Ecco. Nonostante che ci possa essere anche competizione, non, loro sono non poco, no? Questa cosa che ci vuole anche un po' di passione nel credere in queste cose. Io credo che la passione in molta parte della pubblica amministrazione non c'è più, e questo spiega anche i tempi lunghi, e oltre alle difficoltà burocratiche, le piante organiche, cioè io no, i sindaci hanno un mucchio di guai, gli hanno tagliato le risorse. D'accordo, però la passione è quello che unisce. L'avete sentito anche dal tono, io spero che si sia sentito il tono di Nicola Fiasconaro e il tono di Silvano Dovetta. La passione, ciascuno nel suo. Adesso a me tocca dire che Domenico della provincia di Salerno, un imprenditore che ci chiamava dicendo un mucchio di guai perché volevo crescere e sono dovuto andare in un comune a fianco perché nel mio non mi hanno dato soddisfazione. Marco dalla provincia di Ferrara, consigliere provinciale di minoranza, ex direttore di banca, che dice qui ci sono un mucchio di problemi nell'amministrazione pubblica che blocca il paese. Io mi scuso con loro perché il tempo è finito, ma ci tenevo a che voi sentiste le voci di Nicola Fiasconaro e di Silvano Dovetta, perché io credo che con gli italiani così i problemi si risolvono anche senza aspettare le riforme elettorali, costituzionali. Dipende da noi, da loro, dipende dalla passione con cui fanno il loro mestiere, nel pubblico, nel privato, nell'impresa, nel lavoro, nella serietà. Grazie.